Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. I paesi del gruppo di Visegrad, quelli dell'Europa centrale per intenderci, l'hanno chiamata Flexible Solidarity, solidarietà flessibile. Significa che ciascuno ridiscute su base bilaterale quanto discusso a livello di 28/27 Stati membri dell'Unione Europea. Insomma, flessibile, non impegnativo, opzionale. In termini di solidarietà significa non assumere l'impegno avanzato da Germania e Italia, per esempio, ed altri paesi sul fronte del ricollocamento, quel meccanismo che considera lo spazio nazionale dei 27, erano 28, oggi 27 Stati membri, come un unicum all'interno del quale è Bruxelles, nel senso della Commissione, a decidere poi come ridistribuire il fardello della gestione dei nuovi arrivi, che siano profughi, migranti economici o appunto che siano. Il meccanismo, insomma, non va, non parte, non funziona, e di questo si è dunque parlato nella parte iniziale dell'intervento del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. L'ordine del giorno infatti parlava di comunicazione del Presidente in vista del Consiglio Europeo del 20 e 21 ottobre, poi si è parlato di molto altro. Renzi ha citato Jürgen Habermas, filosofo, storico, sociologo tedesco, classe 1929, uno dei grandi costruttori della teoria critica, ma sentiamo perché. La risposta dell'Unione Europea sembra caratterizzata, ha detto Jürgen Habermas con un'espressione molto intrigante e interessante, da un frenetico immobilismo. Questa è la ragione per la quale, dopo una serie di appuntamenti preparatori, quello di Berlino, quello di Bruxelles e quello di Ventotene, dove avevamo immaginato di poter arrivare al summit informale di Bratislava di metà settembre con un significativo programma ambizioso per il futuro dell'Europa, abbiamo dovuto registrare come questo frenetico immobilismo portasse poco più che a niente. Un documento molto banale, una sorta di somma di tanti riassunti, un elenco di buone promesse assolutamente non all'altezza della grande sfida lanciata dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. L'Italia è la nostra priorità. Ad una settimana dal suo insediamento ufficiale, Fabrice Leggeri, direttore esecutivo dell'Agenzia Europea per le Guardie di Frontiera, rompe gli indugi e dice parole che Roma attendeva da tempo, numeri alla mano. Se gli sbarchi di migranti si sono ridotti in Europa rispetto allo scorso anno, dice, in Italia continuano ad essere stabili, con flussi soprattutto dalla Libia. Per questo abbiamo deciso di rafforzare il nostro sostegno al paese. Sostegno come? Anche economico, dice. Il budget per fare i rimpatri dei migranti c'è, i soldi non mi preoccupano, quello che mi preoccupa è che ci siano le decisioni nazionali per fare i rimpatri. Insomma, quella volontà politica che l'Italia denuncia da tempo. E ancora, rafforzeremo il nostro aiuto all'Italia e quanto l'Italia ci ha chiesto e quanto intendiamo fare. Parole che gelano le polemiche. Ma inutile nasconderlo, in Italia non arrivano solo profughi e anche su questo il neoresponsabile delle frontiere europee parla numeri alla mano. In Italia c'è un alto numero di migranti economici non candidabili per la protezione internazionale che devono essere rimpatriati. Altro punto su cui per intervenire però è la politica comune chiamata a decidere. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il braccio di ferro continua, insomma, e ora parliamo invece di fondi europei all'interno delle politiche di coesione. Roberta Pellegatta. I programmi italiani, regionali e nazionali sono stati approvati da un anno e mezzo, ma i relativi fondi europei, quelli della politica di coesione, restano bloccati per il nostro paese e solo per nostra responsabilità. A denunciare la pericolosa situazione di stallo, fonti della Commissione UE nell'ambito della settimana delle città e delle regioni che si tiene a Bruxelles. Nonostante l'Italia sia il secondo paese beneficiario nell'Unione con un pacchetto di 31 miliardi di euro da spendere per creare crescita e occupazione, la Commissione UE si trova nelle condizioni di non poter rimborsare neanche un euro perché regioni e ministeri tardano a completare le procedure previste, quelle di designazione delle autorità di gestione, di certificazione e di controllo necessarie per i 30 programmi concordati. La situazione dell'Italia è una delle peggiori, se non la peggiore, in Unione Europea, avvertono le fonti, che indicano la Polonia come uno degli esempi più virtuosi, con 20 programmi chiusi su 21 per un totale di 70 miliardi di euro di fondi europei. Prima dell'estate Bruxelles aveva scritto all'Italia sollecitando a fare presto, anche perché nel 2018 ci sarà la prima verifica e il rischio è che scatti il disimpegno automatico di quei fondi che risultano non spesi nei tempi previsti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per adesso per l'Europa. Naturalmente i nostri programmi vanno avanti, vanno avanti con l'appuntamento con Carlo Genta e siete naturalmente tutti convocati. A domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.